Nasce la risposta ai tuoi bisogni e ai tuoi desideri. Più passione, più innovazione, più amore per il dettaglio. Fiat presenta la nuova Fiat. Fiat Punto. Bella e solida. Più spazio, più sicurezza, più temperamento. Fiat Punto. La risposta. Mamma mia, che ansia le musichette di stasera tra lo spot e la sigla. È bisogno dello psicologo, ragazzi, davvero. Che ansia. Ecco. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno è tutto il giorno. Esatto. La possiamo sdoganare sta cosa qua. Visto che io spesso continuo a rispondere buongiorno tipo anche alle 10 di sera. È da tanto che non mettiamo il nostro amico, buongiorno. Buongiorno, non ce l'abbiamo pronto qua. No, non l'abbiamo proprio cancellato dalla memoria del PC. Quindi non è più presente neanche nelle teche dell'uomo. Esatto, perché la brusca cambia, è in continuo rinnovamento. La brusca è cangiante. Yes. Siamo bellissime. Sì, sì, sì. In questa settimana terribile, ragazzi, terribile, infatti... Ci saranno degli abbinamenti musicali che sono molto inerenti alla settimana che sta per terminare. Una settimana veramente orribile. Mamma mia. Sì, ora, visto che ci siamo, prima ancora di partire, vi voglio far sentire solo l'inizio di un piccolo servizio. Rubiamo il ruolo ai nostri amici della segna. No, perché non sia mai. No, solo no, così. Che poi ci prendono in parola. Come giustificare il sentore di merda in giro per il pianeta. Continuano per il 16° giorno consecutivo i bombardamenti turchi sulla regione siriana di Afrin e aumentano le vittime. Ieri, oltre agli almeno 150 civili uccisi, sono morti anche 7 soldati turchi per la risposta dei curdi dello YPG. È proprio le postazioni della guerriglia curdo-siriana, decisiva per sconfiggere l'ISIS ma che la Turchia considera fiancheggiatrice del PKK, sono nel mirino di Ankara. Tuttavia fonti locali accusano i turchi di compiere bombardamenti sistematici sui civili, come conferma questo testimone. Ci sono stati pesanti bombardamenti. Ora, tanto sarete sicuramente più aggiornati di noi sulla situazione, però era così giusto per darci un tono. Esatto, ecco. E uscire un po' dall'Italia. No. Sì, perché anche qui la situazione non è che si è messa tanto bene. D'altronde, esatto, il nostro paese ha inventato l'appunto. sì, con cui, ecco, abbiamo voluto. E quindi è l'unica cosa a cui possiamo agganciarci. Esatto, la macchina grossa ma inutile. Esatto, non è utilitaria, non serve a niente. Io ho un appunto, io faccio una fatica, avuto, la fatica che si fa a parcheggiare in una città come Firenze con l'appunto, dove c'è posto per il SUV o per la Smart o la 500 del cazzo. Poi ha sempre questo difetto dello sterzo che ogni tanto si blocca e diventa duro, tutte, penso tutte le macchine di questa tutte casa, le Fiat sicuro. Sì. Sì, sì, quindi sappiatelo, è un difetto di fabbrica, non fate cambiare il pezzo perché tanto ve ne danno uno difettoso. Esatto, perché hanno solo quelli. Almeno non spendete soldi. Detto, detto ciò, questo, possiamo andare avanti a parlare della puntata e non dei cazzi nostri. Esatto, perché noi vi diamo consigli sui libri, sui film e anche sulle macchine. Donne e motori. Esatto. Gioie e gioie. Eh sì, ovviamente. Quindi, come dice la pubblicità che avete sentito poc'anzi, anche noi oggi parleremo di qualcosa di altrettanto bello e solido come la nostra, appunto. Parleremo di il punto, del punto. Quindi chiudiamo oggi qui il nostro piccolo viaggio nella punteggiatura che avevamo sospeso in realtà un paio di puntate orsono, parlandovi e vorremmo parlarvi appunto oggi di questo segno di interpunzione che viene spesso accomunato alla conclusione, per cui facciamo nome nomen e chiudiamo il nostro discorso appunto parlando del punto che è effettivamente il segno di interpunzione più importante e anche il più antico. Poi vi spiegheremo perché, vi racconteremo la sua storiella. Allora, come se fossimo Alessandro Cecchi Paone. Sì, che è diventato pazzo da quello che sapevo praticamente. Allora, che dire, il punto, vabbè, facciamo una nostra solita introduzione per conoscere questo nostro amichetto. Il punto è ovviamente presente in tantissimi ambiti, cioè il punto come maledettissima astrazione matematica che viene utilizzata soprattutto in geometria e che costituisce uno dei tre elementi primitivi della geometria euclidea, no? Quindi quel famoso punto per il quale magicamente passa una e una sola retta. Lo sapevo che prima o poi avremmo parlato di Euclide. Hai capito. Che culo. Me lo sentivo. Sentivo un po' di aria euclidea. Sì, sì. Ecco. Vabbè. Speriamo la senta anche Salvini in un punto preciso del corpo, l'aria euclidea. Sì, intera. A base quadrata. Esatto, ma anche triangolare non sarebbe male, eh? Che schifo, ho letto un pezzo di un articolo orribile. No, infatti non lo voglio neanche citare. Noi abbiamo una gran cagare. Voglia di fare una puntata sul linguaggio di Salvini. Si potrebbe fare, non è una cattiva idea. Poi abbiamo dimmelo il punto. Che giorno avrò qualcosa di meglio da fare, tipo andare dal ginecologo. E lamentandoti di questa cosa. Chiaro, mentre c'è l'ecografia interna, ovviamente. Sì, sì, sì. Semplice. Poi abbiamo il nostro amico punto come segno di interpunzione di cui parleremo questa sera, il punto come determinazione della posizione di una nave, addirittura grazie a Wikipedia, il punto di sutura, la procedura chirurgica, il punto materiale, quello che in fisica è un corpo di dimensioni trascurabili rispetto al fenomeno che è oggetto di studio, il punto come unità di misura per stilare graduatorie in elezioni, gare sportive, prove d'appalto, test, selezioni, eccetera, eccetera, eccetera. Il punto come sinonimo di combinazione nel gioco del poker, ma non solo. Me lo fai leggere questo? La nenia, vai. Punto tecnica sartoriale di ricamo. Vedere voci relative ai vari tipi di punto. Esempio, punto imbastitura, punto crocchio. Oh. Ma li sai fare? Li sai fare? No. Cioè, sì, ma male, quindi no. Quelle cose bruttissime quel sì. Punto. Mia sorella aveva fatto una presina con un Rottweiler sopra, col punto croce. E dietro Cristo. Tipo, Padre Pio un carabiniere. Wow, bellissimo. I grandi protettori dei camionisti. Esatto. Ricordami che ti faccio vedere una cosa dopo. Finiamo di farci i cazzi nostri per la terza volta. Abbiamo il punto tipografico, che è una famiglia di unità di misura, chiuto ragazzi, mi sento male, usata in ambito tipografico, punti per pollice, che sono un'unità di misura informatica, e il punto di valore, che è il segno utilizzato ovviamente nella notazione musicale. Quindi parleremo di tutti questi. No, certo che no, signora mia, ma cosa dice? Oggi parleremo soltanto del segno di interpunzione, di cosa da dire, effettivamente ce ne sono abbastanza. Dalla sua storia, al suo utilizzo, una piccola curiosità, a il nostro caro amato Calvino. Quindi sarà una puntata difficile. Sì. Allora abbiamo bisogno di un pezzo divertente. Sì. Sempre allora voglio... per sdrammatizzare la nostra... quotidianità, la nostra contemporaneità. Sì, e sì, da quelle parti mi sa che... Ma... a sfumarlo perché dura 7 minuti, ma macerata posse. Posso viarti il corpo. Il corpo che te spacca. La dedico al mio amico Alessandro che è di Porto San, non mi ricordo mai, Giorgio? Non lo so. Egidio. Comunque non insomma so. Parla così e quindi gli darei questo pezzo. No, ma pozze piatte in corpo è troppo corpo, bello. Un corpo che te spacca, sì. Un saluto agli amici di Macerata. Solo quegli amici e tenete duro. Chiaramente. Tra l'altro leggevo che hanno confermato il corteo sabato 10 a Macerata. Nonostante tutte le polemiche si farà lo stesso. Chiaramente. Grazie all'Ampi, lo vogliamo dire? Ampi, PD, insomma, si sono tutti tirati indietro, però il corteo ci sarà lo stesso, gli amici manifesteranno comunque. Quindi chi può si aggreghi ai vari autobus che partono dalle varie città. Da Firenze ne parte uno, ma al momento non ho indicazioni precise, però se cercate su Facebook o queste cose qui, insomma, esatto, avrete delle informazioni più chiare. E quindi nulla. Tocca mettere un punto a questa bellissima canzone. E quindi punto. Punto. Altro? Altro? Altro. Ma anche di questo parleremo, ve sì, lo prometto. Prima o poi sì, però voglio Wendy in trasmissione quando si farà quella puntata. Punto. Senza di lei non la possiamo fare. Si invita. Ok. Ne parleremo a breve. Bene. Allora, come si chiama in realtà il punto che utilizziamo nella, diciamo, punteggiatura, no? Guarda caso, prende proprio nome punteggiatura, è il punto fermo. quindi semplicemente conosciuto come punto per gli amici, ma punto fermo invece all'anagrafe. Perché gli è piato un corpo. Gli è piato un corpo che l'ha spaccato. Un corpo spaccato. E corrisponde questa alla più lunga pausa esistente, che è pari soltanto a quella del punto interrogativo ed esclamativo, che non sono in realtà segnali di stop, ma sono invece segnali, diciamo, di intonazione all'interno della frase. E quasi più, sì, sono segnali di intonazione. E quindi, appunto, parliamo di punto fermo, ma parliamo anche di interrogativo e di esclamativo. E in italiano, nella maggior parte dei casi, quindi facciamo il 95%, il punto serve a separare due sezioni di discorso che contengono idee che sono fondamentalmente diverse e che vengono chiamate nella grammatica, chiamati periodi, soprattutto nell'analisi del periodo, appunto. E il punto viene utilizzato per che viene utilizzato per chiudere un periodo è seguito da uno spazio e la prima parola del periodo successivo inizia sempre con la lettera maiuscola. Questa è una regolina old style che ci si porta dietro. Bisogna ricordarsela, sì. Non è così banale. E soprattutto lo spazio va dopo il punto, non va prima, per cortesia. Grazie. Basta, come diceva Moretti, per cortesia basta. I punti sono importanti. Importantissimi. E il punto può servire anche come segno di abbreviazione, però. Quindi non conclude solamente, cioè, sì, effettivamente è una conclusione anche l'abbreviazione, stringando. Però c'è un continuum che andrebbe comunque attaccato. Quindi è contenitivo. Quindi non, sì, non è... È contenitivo. Non si può mettere la maiuscolina. Basta. È come le fasce. Vabbè. Il punto può servire quindi come segno di abbreviazione. E in questo caso può trovarsi sia alla fine che al centro di una parola, tipo dot sa. Oppure ingegner cane. E appunto anche prof sa per professoressa. E il punto di abbreviazione non richiede di essere seguito da una maiuscola e tantomeno preceduto barra succeduto. Da uno spazio. Deceduto da uno spazio. E non è seguito da uno spazio, anche se si trova all'interno di una parola, professoressa Bianchi, professa Bianchi, ma è seguito da uno spazio se si trova alla fine di una sigla. Quindi ingegner, per esempio, il famoso ingegner dell'8 per 1000, Mario Rossi, è ing punto staccato. Sembrano cose stupidine, ma in realtà fa sempre bene ribadirle. Brava, mi piace. E sì. Quindi questi punti vengono, il punto viene utilizzato anche per l'acronimo, per esempio USA, United States of America, vengono, diciamo, tutto questo concetto viene condensato all'interno di un acronimo che utilizza punti punti come segno di abbreviazione. Ecco. Ecco qua. Basta, questa è una cosina, diciamo, a livello... sì, ma a livello ortografico. Ortolano. Ortografico, sono un po' sconnessa oggi. Anch'io, sì. C'era il tempo. No, ma c'è bello fuori. Ma è un tempaccio uguale. Sono arrivata in radio a piedi, mi guardavo intorno, le stelle. Le giornate allungano, ci sono le stelle. Sono tanto contenta che si allungano le giornate. Quello se ci si potesse fermare a maggio. Però ecco, no, anche aprile. Aprile, grazie. Aprile, sì. Piove. Volevo, parlando del futuro, aggiungere una cosa che prima ho saltato. La maganenia. Qui nella mia sfera di vetro vedo un venerdì e poi un sabato 17 a Roma, la capitale, c'è un corteo. Tutti a Roma, perché alle 14 parte il corteo, inizia, insomma, partirà il corteo... appunto per la situazione curda, quello che sta succedendo ad Afrin. Anche da Firenze partiranno degli autobus, ma insomma, sicuramente in qualche modo uno si arrangia, se vuole va. E che dire, niente, quindi due sabati di cortei importanti, chi può chiaramente vada. Chi vuole, sì, farsi una passeggiata, fare questa gran capatina che male non fa. Molto importante. Sì. Molto. Che dire? Ma li vogliamo dare ora gli appuntamenti o li vogliamo dare alla fine? Ma sì, visto che ci siamo, visto che siamo agendati, sì. Sono veramente tanti. Anche perché me li sono riguardati bene, perché la settimana scorsa, mi devo scusare, avevo sbagliato, avevo preso un autogol, una grande cantonata. Ci siamo sbagliate perché non me ne ero accorta nemmeno io, per cui... Però ero andata avanti di una settimana, sempre per colpa della mia sfera, che non era aggiornata nel futuro, non e quindi era andata troppo avanti. Un macello sta sfera. Insomma, i famosi concerti di cui parlavo la settimana scorsa sono invece questo fine settimana. Venerdì 9 e sabato 10 al Next Emerson c'è questo Sound Collective Fest. Primo e secondo giorno sono l'insieme, per la prima volta una collaborazione del collettivo Nuovi Rumori e Smash Sound. Poi ci sono le proiezioni alle 21 del venerdì, la proiezione di Binxet, sempre per tenere viva l'attenzione della che è situazione curda. Bellissimo, ragazzi, bellissimo, un documentario più che sì, un film, sì, bellissimo. Sì. È veramente molto bello, ve lo consiglio. Se non riuscite ad andare al Next Emerson alle ore 21, in qualche modo guardate, insomma, cercatelo, si trova facilmente. Questo è chiaramente un documentario fatto tempo fa su Rojava. Quindi, insomma, merita davvero. Poi dalle 22:30 in poi ci sono i concerti, c'è un sacco di roba. Andate a vedere nel sito del Next Emerson. Mentre sabato 10 dalle 19 cena di autofinanziamento di questo nuovo collettivo Smash Sound. E poi concerti dalle 21:30 in poi, perché ci sono parecchi gruppi. Stavo guardando se Binxet si trova online, tipo su YouTube, al momento non c'è, ma sicuramente... c'è qualcosa su Vimeo, se non sbaglio, per cui... se no venite qui, ve lo guardate, esatto, qui da qualche parte sul Firenze e vario, e chissà. Poi invece sempre sabato, in contemporanea ai concerti, vedo una milonga, Tango Sognato, sì, sempre a Next Emerson. Quindi guarda che eclettismo questo accidenti, posto. Questi ragazzi sono qui a Firenze attivoni. C'è veramente un gran movimento, eh? Sì. Non sembra, visto? Sembra tutto un po' così. E poi venerdì prossimo, sempre Next Emerson, serata critica al MAS di Firenze dalle 17. Per chi non può andare al corteo, si fa una bella passeggiata in bici, viene a Firenze qui. E alle 21, cena benefit... sempre critica al MAS, poi concerto dei Jackson Pollock, tutti in bici, sì, certo. Quindi avete modo, avete una settimana di tempo per... Allora, secondo me da Roma venite qui a Firenze in bicicletta e poi sì, in bicicletta una settimana. O vi ci vuole tutta, E poi ritornate giù il giorno dopo perché c'è il corteo. Esatto. Quindi amici romani, se volete farvi una, esatto, passeggiata, poi ci date un passaggio. Esatto. Io ero convinta che tutte queste cose fossero invece questa settimana. Sì, invece ma anch'io se non avessi un'agenda, che comunque non riesco a capire, ma vabbè, ma quello è un altro mio problema. Perché abbiamo speso tutte le energie per fare quella puntata meravigliosa della settimana scorsa, siamo completamente atterrite. Per... Grazie per i complimenti che ci sono arrivati. Ecco, grazie, che bello, qualcuno ci ascolta. Che dire, stesso fine settimana, ma c'è troppa roba in questa città. Sarà sabato 17, Polveriera, domenica 18, Corsica. Abbiamo dell'età, due giorni di arte, incontri, decorazioni, concerti e confronti. Andatevi a vedere il programma, perché se vi si legge tutto, si fa notte, ma è veramente molto interessante. Bene. Basta per adesso, poi vi quindi daremo altre news. Abbiamo un bel po' di cose da fare tra questa settimana e la prossima. Sì, sì, sì, sì, sì. Venite tutti a Firenze, voi che ci ascoltate da Oltralpe. Esatto. Basta. Cosa vuoi ascoltare? Sì, qualcosina? Un pezzettino dopo che abbiamo fatto tutto il nostro recap degli appuntamenti. Bene, ok. Allora ci buttiamo nel... Faccia lei, maestro. Ci buttiamo sull'hip hop antifascista. Io. Ci sta. Los famosos encapuchados. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada desde que encapuchados se tomaran las calles de manera extremada. Los violentos hermanos esto populismo, esto es robo. Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra. No me hablen de violencia, como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la catenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencian la violencia inmensa de todos los días. Los constantes allanamientos con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenazas que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violenta es la venta de tus derechos y de hecho es un robo el cobro en educación, salud y techo. Violento es el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar. Pero eso no sale en la prensa, que trenza mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. No hay algo más hipócrita que hablar de la violencia. Si esta no toca tu puerta, ni en la noche te despierta. Ven a dormir acá en el gueto y dime si hay facetas de esta realidad concreta que yo no comprendo. Violencia es la indiferencia con la gente, o la manera chata en que el rico trata al indigente. Son las barreras que inventan para discriminarte, son murallas levantadas para frenar al inmigrante. Dime quién es responsable de estas atrocidades, crímenes contra la humanidad, prisiones militares. Ayer Irak y Afganistán, hoy Libia. Niños de Palestina se asesinan casi cada día. Cuando el imperio identifica a su enemigo, los dueños de los medios justifican hasta el genocidio. Y los que bombardean escuelas y fábricas después de derechos humanos quieren dar cátedra. No les compramos cuando dan ese argumento que demoniza a los que están luchando por ser tan violentos. Si en una pura sesión en el parlamento aniquilan más vidas que todos nuestros caseros armamentos. Pero si poderosamente reclamamos algo, nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo. Violento yo, violento tu fucking fajo, que son sufrimiento y muerte para la gente del trabajo. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. ¿Cuándo se va a acabar la violencia? Solo cuando se acabe la desigualdad social. Cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como las weas. Cuando valga la pena buscar pera en vez de traficar o salvarse robando en la esquina. Cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos. Cuando el transporte público no nos trate como ganado. Cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle. Cuando nuestros niños coman bien y crezcan sanos. Ahí va a terminar la violencia, te lo juro, mi hermano, mi hermana. Y hasta entonces solo habrá guerra, guerra, guerra, guerra. Questo pezzo sarebbe sicuramente piaciuto a un amico del Wombat, che io e la Nania sappiamo chi è. È uno dei fiori di Puglia. Un brughissimo. Davvero. Allora, fatta la prima premessa veramente da maestrina con il gessetto rosso sulla LIM, sulla lavagna magnetica, sulla lavagna magnetica, hai capito cosa ho detto? Sì, con i magnetini. Vi parliamo un pochettino della storia del punto. Allora, fino al Medioevo il punto è stato l'unico segno di interpunzione che si usava e aveva funzioni diverse a seconda del periodo e a seconda se era posto, per esempio, all'altezza della scrittura, quindi quasi centrale, nel rigo, anche se i righi non si li utilizzavano, in basso, in mezzo, ok, o in alto. e più anticamente ancora il punto aveva soltanto la funzione di distinguere una parola dall'altra, aveva diciamo il compito che oggi assume lo spazio. Di separare. Se voi vedete le vecchie pergamene degli ammanuensi prima del 1050, più o meno dell'anno 1000, avevano questo puntone in queste in prima sì, forse anche un pochettino prima, perché mi sa che con il Carolingio il punto è sparito, o forse è rimasto un po' e poi è andato a scemare. Sì, perché poi c'è stato anche un periodo in cui non c'era proprio niente, esatto. E poi è ritornato lo spazio, esatto. con la punteggiatura. Ed è ovviamente queste altezze varie del punto in alto, in basso, avevano delle funzioni differenti, anche per l'intonazione nella lettura, soprattutto venivano utilizzati durante la preghiera, per esempio durante i canti pseudo-gregoriani. Insomma. La Santissima Preghiera. Sì. Santissima. Santissima, sempre sia lodata. Ed è solo a partire dal XV secolo, con l'invenzione dei caratteri a stampa e la diffusione dei libri, che il sistema di interpunzione si arricchisce man mano di altri segni, fino ad arrivare, diciamo, al numero di segni che utilizziamo oggi, tra virgola, punto e virgola, due punti, eccetera, eccetera. E, nei codici, il sistema interpuntivo dell'antichità, quindi siamo proprio nell'antichità classica, consisteva di tre, si chiamano positure o distinciones. Forse ne avevamo già parlato quando abbiamo trattato la grammatica, la punteggiatura a livello generale, però lo ripetiamo eventualmente. La subdistinzio, la media distinzio, fatica a dirlo, e la distinzio, cioè sono tre positure che vengono chiamate successivamente pausazione e sepunture, che erano rappresentate da un unico segno, come dicevamo prima, e che era il punto, che variava nome e collocazione generalmente accanto all'ultima lettera, secondo le positure che doveva indicare. Come dicevamo prima, in basso segnava la subdistinzio e si diceva comma, il che significa quasi prendere il posto della virgola. E rappresentava la media distinzio poi, e prendeva il nome di colon, e in alto esprimeva la distinzio ed era il periodo, per cui la fine, diciamo, di una serie di periodi che vanno a costruire una frase. Ai tre gradi di interpunzione poi fanno riscontro quindi segno di Erni, la virgola, il punto e virgola e il doppio punto o punto fermo, anzi. E questo sistema dell'antichità, che usava comunque la scrittura maiuscola nelle epigrafi, il cosiddetto onciale o la semi-onciale, passa poi al Medioevo, che mantiene le tre positure. Abbastanza semplice, no? Poi, con la diffusione dei tipi di scrittura differenti, il colon, quindi la diciamo chiusura del periodo, diventa punctus planus. Perché ridi? Perché ho detto colon? Sì, perché sono alle scuole medie e basta dire insenatura, colon, e io, esatto, rido. Ha detto lo stronzio, sì, grandi risate. Vabbè, ciao. Sai che quando ero bambina dovevamo sottolineare su una bottiglia d'acqua i minerali presenti all'interno, io ovviamente ho sottolineato lo stronzio. Con grandi risate la maestra si è arrabbiata, la maestra Paola. Terribile. Coraggio. Allora sentiamo. Facciamo una pausetta. Un brano. Sempre dello stesso filone. Yeah, che è bellezza. Hoy en día ya nadie sabe lo que es la belleza. Es un concepto que se ha perdido, ¿sabes? Belleza no es un fajo de billetes, no es un cuerpo perfecto, no es el brillo falso de estos tiempos. Belleza no es una carrera magistral, ni una mente eficiente al servicio del capital. Belleza no es consumo, tú eres consumido. Belleza no son posesiones, son tus acciones. Belleza no es tu inteligencia, ni tu competencia. Belleza es voluntad de morir por tus ideas. Eso es belleza, una mente en claridad, sufriendo por el hecho de estar viendo más allá, no venderse por la muerte del triunfo personal, estar dispuesto a todo, no te van a parar. Belleza es la lucha por las ideas y una mujer tirando una piedra, mi reina. No os confundáis, pudimos ser como el resto de la gente. Belleza es una decisión absolutamente consciente. Belleza no es una modelo perfecta. Belleza es una mujer con heridas de guerra. Belleza no es tu casa, ni tu coche, ni tu cuenta, sino aquello a lo que puedes renunciar por tus ideas. Belleza es una acción de alguien que no entienden los demás porque pertenece a una lógica de elevada claridad. Belleza no es una hipoteca, ni salir a drogarse, ni porros, ni alcohol, ni un trabajo estable. Eso es ser un cobarde. Belleza es revolución, disciplina estricta y la fuerza del ciclón. Belleza no es un sistema de vida perfecto. Te oxidas cada día, algún día estarás muerto. Belleza es cuando mueras, saber quién has sido, no haber sido solo una pieza de este mecanismo. Belleza es desobediencia porque tienes cierta visión. Yeah. Belleza es el amor. En el mundo de los mudos, de los ciegos, de los duelos por el ego, donde todos van a saco por el sexo y los talegos. Identidades ya prefabricadas, espectadores en las gradas, tragos, gramos y caladas. El mundo en el que nada sabe a nada, donde el agua y la comida misma están ya envenenadas y marcan el estilo fotocopias. Pero quedan aún personas que brillan con luz propia, por decir no cuando decirlo está prohibido, por decir que sí cuando se lo marcan los latidos, por tener la valentía de enfrentarse, el interés, el tesón y las ganas de superarse, por curarse con esfuerzo su propio camino, por creer en sí mismo, sí, no en el destino, bajándose de la cinta transportadora, queriendo ser los dueños de sus mentes y sus horas, brillando fuerte en el reino de lo inerte, porque hay un sentimiento y por ello van a muerte. Cansados ya de ser pisados como alfombra, dejaron la cortesía y viven entre las sombras. La vida es vida cuando como vida actúa, y lo natural es enfrentarte con quien te hace la púa. No veo belleza en un tibio con modales, el brillo está con los rebeldes y anormales, los que tienen miedo pero no hacen caso y se juegan a cada paso el triunfo o el fracaso. Al rojo vivo van por una cuerda floja, intentan la pirueta aunque ninguna red la escoja, viviendo enamorados de gestos infrecuentes, para unos delincuentes, para mí diferentes. Lo digo con una sonrisa, porque ellos tienen sangre y los demás solo tienen prisa. A muerte en la vida, despierto en la ruina, el filo suicida, profunda mi herida, mirando a los ojos, jodiendo con miedos, amor y odio en nuestro trayecto. A muerte en la vida, despierto en la ruina, el filo suicida, profunda mi herida, mirando a los ojos, jodiendo con miedos, amor y odio, a veces me pierdo. Desobedece, nadie tiene dueño, ya sabes. Voilà, siamo tornate. Sempre sul pezzo, eh? Certo, certo. Tra l'altro abbiamo anche visto che saremo puntualissime come al solito con la nostra puntata. Ma che fa? Dubita? Ma che fa? Fantozzi, oggi non ce l'abbiamo il nostro Dubita. Amico. Che fa? Dubita. Ma. Non ce l'abbiamo oggi. Allora, possiamo dire che nella calligrafia, tanto per continuare, il punto ha una notevole importanza. Perché è complemento, lo troviamo per esempio della lettera I minuscola, dove è stato introdotto durante la scrittura latina nel Medioevo. Poi abbiamo due punti ravvicinati orizzontalmente. Pim, pim. La Nani ha fatto esattamente il volto dei due punti avvicinati orizzontalmente. Pim, pim. Pim, pim. E sovrapposti a una vocale sono segno di dieresi. E in alcune lingue hanno ovviamente la dieresi assume valori diversi in varie lingue. Io mimo soltanto, ho perso la parola mimo la radio, esatto. Mimo, punto. Basta. Punto. In tedesco e analogamente in altre lingue germaniche, sopra le vocali A, O, U, viene introdotto il segno della metafonesi, la umlaut, mentre sulla E dell'alfabeto cirillico questi due puntini vanno a indicare la pronuncia io della vocale E, quindi abbastanza importante, no? Si chiamerebbe questo segno diacritico, che servirebbe quindi a distinguere, in questo caso, un suono analogo a un altro, che all'interno di un contesto, quindi in questo caso di una parola, assume una pronuncia differente. Quindi U con i due puntini sopra umlaut diventa U, e questo fa sì che una parola abbia non solo una pronuncia, ma probabilmente anche un significato differente. perché appunto questi segni diacritici magari servono proprio a disambiguare due omonimi. E come segno di interpunzione poi abbiamo il punto fermo che indica la fine del periodo. Fratellino del punto e virgola di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata sulla punteggiatura, che indica una pausa del discorso e un distacco logico un pochino più forte della virgola. E poi abbiamo i due punti che servono per introdurre un discorso diretto, una citazione da testo, un'enumerazione, una frase che serve di chiarimento, di amplificazione di quanto precede. E poi abbiamo i nostri amatissimi punti esclamativi e interrogativi, che servono appunto ad annunciare un'esclamazione o un interrogativo. E quindi insomma anche questi hanno un valore molto importante perché danno un'intonazione e fanno capire diciamo tra due parlanti che qualcuno sta rivolgendo una domanda o sta facendo un'affermazione molto solida. Una serie di punti uno dietro l'altro di regola sono 3 e basta e basta, non 78. Alla fine di una frase, oppure anche nel mezzo, indicano che il discorso è stato sospeso, interrotto volontariamente. Ed è per questo che si chiamano punti o puntini di sospensione o addirittura di, vediamo se lo sai, Nania, reticenza. Oh. Bello, i punti di reticenza sono fantastici. E quelli con quelli non abbondi, quelli sono 3. No, sono 3 e basta. Sì, si va oltre. E questi puntini possono servire anche nelle citazioni di parole altrui a tenere il posto di parole o frasi che si tralasciano, generalmente racchiudendoli tra due parentesi quadrate. E si segna poi di solito un punto al termine di una parola abbreviata, come abbiamo detto prima. Quindi questo prontuario, diciamo, per l'uso del punto vi sarà sicuramente utile, perché è inutile che lo vogliamo dire, ma collegandoci a qualche puntata che abbiamo fatto puntata. Che abbiamo il mio livello è questo, oggi non posso andare oltre. Lo troveranno nella descrizione del podcast. Ovvio. Qualcosa mi dice questo. Ovviamente. E siccome siamo in una fase di deterioramento della lingua e del suo uso, abbiamo parlato dei congiuntivi, e cerchiamo di combattere la cosa utilizzando anche un pochettino dal punto di vista della calligrafia. Punto di vista! Mio punto di vista... puntino di vista anche a livello insomma dell'ortografia, un qualche cosa che ci faccia capire che quello che stiamo leggendo è stato scritto con cura e che cazzo e con amore e con amore tanto, con amore tanto amore. E poi parleremo di Italo Calvino, però io ho bisogno di bere un po' d'acqua. Eh sì, e quindi sicuramente acqua. E allora sì, questa sera è acqua. Oh, povera. Tutte queste medicine dei mali stagionali. L'acqua. Allora vi faccio sentire un po' di rap cantonese. Bellissimo. No, non ci credo, dai. Ma senti che partenza. Meraviglioso. È un commento, capolavoro. Fa il commento. Cause 买错得错，有啲人连饭都冇得食，餐餐挨饿，惨不过遇到打仗嗰、那个，枪林战火，赌条命同人搏火，一个唔好彩，手脚冇咗条命俾人攞。有啲中绝症医唔好，一啲人生希望都冇，只系等时间见耶稣。命运其实好似一条路，直路弯路，有时直情一条死路。条路系你嘅，可以任你随便改造，一切主宰响你手度，睇你点做。有人生活比你更加潦倒，更加多烦恼，仍然尽力将每一日过得更好。所以你咪成日投诉，一直碌碌嘈嘈喺度发牢骚。 靠双手，将苦困。全都化，只要心绝对不怕难，靠自己不用求神，亲手过人面，自己命运。 迷问系咪每个人天生应有权去掌握自己命运？每个人天生拥有自由灵魂，每个人天生通向命运发问。有句话知识可改变命运，有幸读过书你就有一份人民责任。一样米系点样可以养到百样人？夹在天地之间，咁你要点看命运？ 命运，你因乜嘢问人一乜嘢问？命运，你系点样嫁人？点样做人？命运，你因乜嘢做人？因乜嘢问？命运，你系点样问人？点问命运？ Point blank见叔 MCN 教你点样做人，掌握自己命运。 靠双手，将苦困艰苦局势全都化，只要心绝对不怕难，靠自己唔使求神。走过一遍，自己命运。 威严唱片 ，Boy Blank， 严肃 ，MC Yan， 你是 Fan Represent， 嘴巴话滚滚，今日播香港中文 Hip Hop 第一堂。 Rieccoci, ci siamo. Dopo questo pezzo... Nina ha detto una parolaccia, forse mezza parolaccia si è sentita quando tiravo sul volume dei microfoni. Si la è sentito cattiva solo maestrina. Ulo. Ulo. Ulo. Mulo. E niente. Cuculo. Cuculo. Bellino questo pezzo di rap cantonese. Perché il tipo si chiama Point Blank e non potevo metterlo. Sì, a me è piaciuto. Anche a me, con questo sottofondo, sì, un po' western. Ma Macerata Posse, è questo, devo dire, che sono i miei pezzi del giorno. Macerata Posse, Posse Piarto in Corpo. Vedi che sound che ha, come attecchisce. Un corpo prende tantissimo. Io andrei... Scusa, andrei al corteo sabato con questa. E davanti alla polizia, Macerata Posse, Posse Piarto in Corpo. No, questa è una ideona per chi va, ragazzi. Io non posso andare, però vi prego, chi va se lo porti dietro. Esatto, è attaccato a adesivi del Wombat. Se non lo trovate, ditemelo, ve lo do io in una pennina USB d'oro. Ci mettiamo il passamontagne, così non ci vedete. Faccio il vinile, guarda. Dorato. Bellissimo. Il disco d'oro. E glielo regaliamo. Immagini. Glielo dobbiamo regalare. Un saluto a questi che hanno scritto questo pezzo meraviglioso, perché è davvero sì, notevole, di parecchi anni fa, eh? Sì. Che poi, vabbè, no, niente. Niente. Andiamo avanti, se no si fa tardi e noi invece vogliamo essere precise. E ve siamo in chiusura dopo, perché mancano 9 minuti, e vi parliamo dell'ultimo, diciamo, collegamento con il punto, che è Italo Calvino. Gli vogliamo bene, a lui sì. Anche la trombettina. E poi, attenzione, ci quando uno fa questo rumore, quando fa questa trombettina, magicamente gli appare una sciarpa intorno al collo e lo yodo sta in mano. Attenzione, ovunque vi troviate. Pubblicità della settimana prossima. A questo punto sì. Il racconto di Tutto in un punto, scritto da Italo Calvino, in realtà non c'entra molto con la grammatica, però ci fa capire quanto il punto sia un elemento minuscolo ma importantissimo, quasi come l'atomo, no? Ed è un esempio di geniale... Addirittura. Ma un po'. È il nostro è l'atomo della linguistica. Anche... Questa cecchi paone dei noi altri. No, poi divento pazza come lui. Super Squark. Ho trovato un tipo che imita su YouTube, che ti imita benissimo Alberto Angela. Ma è sì, bellissimo. Ma è Neri Marco Re. Oltre a lui, vabbè, okay. Lui rimane il primo e ultimo, cioè, indimenticato. Number one, the limit. Bellissimo. Tra l'altro, mi sono sentita molto Neri Marco Re che imita... L'hai visto? No, vabbè. Quando vai a Sesto, alla Coop, a fare la spesa... Che sotto c'è questo scavo romano. Lì all'Iper. Ah, all'Iper. Sì, all'Iper Coop, è vero. Lui sì. Aveva fatto ai tempi, oddio, con l'ottavo nano, mi sembra, addirittura aveva fatto questo servizio dove diceva che andava a trovare questa tomba romana etrusca molto importante. Mi sa era lì. E ci sta. E che poi ovviamente lui che era spettacolo. Completamente pazzo, non si accorgeva di essere in un centro commerciale, iniziava a prendere le banane. Questo frutto molto antico. Che bello. Mitico. Questa mi manca. Torniamo a Italo, dai. Sì. Allora, il racconto di Tutto in un punto è un esempio di reinvenzione di un mito in chiave moderna. La nostra epoca, infatti, è dominata dalla ricerca scientifica. Lo scrittore contemporaneo non costruisce una teogonia, ma basa l'origine dell'universo sulla base più accreditata della teoria cosmologica, quella del Big Bang, che in inglese, questo termine in inglese insomma che noi utilizziamo spessissimo, e questo sembra essere il suo proposito quando nel corsivo che troviamo all'introduzione rimanda alle scoperte di Hubble. E Tutto in un punto però è un racconto in cui l'autore non indaga la natura astrofisica dell'universo ma la natura del cuore umano. E ci dice che il motore della creazione, il movimento primo che origina tutte le cose, è l'amore. Tutto in un punto, no? E quel tipo di amore che nel corso di tanti secoli di storia umana hanno esercitato soprattutto le donne, fatto di atti concreti quotidiani, molto spesso accomunato all'impastare e cuocere il pane. E anche le tagliatelle, c'è anche l'esempio delle tagliatelle. E la storia è tratta da un libro che si chiama Le Cosmicomiche, è una raccolta che è stata pubblicata in Italia nel 65, mi sa anche è stata tradotta e pubblicata pure all'estero. Cosmicomiche allude al contenuto, il cosmo, l'universo, e allo stile comico, non nel senso più comune tipo Zelig, no? Ma nel senso di scrittura che vuole suscitare il riso nell'uso però antico, di discorso leggero in stile medio, che è diciamo un espediente per poi affrontare un argomento un po' più serio. E la scelta dei temi, che sono tutti relativi alla storia dell'universo, in queste cosmicomiche, ah che fatica a dirlo, queste cose cosmicomiche, testimoniano da una parte l'interesse di Calvino per la scienza, prima di passare a quella per le lettere, lui frequentava una facoltà scientifica, è una cosa da Alberto Angela. Cose comiche. E per la letteratura fantascientifica, che proprio all'inizio degli anni 60 ha conosciuto una grande fortuna in Italia. Ecco. Gli Urania lo testimoniano. Infatti. Ma le cosmicomiche non si occupano veramente di scienza. Calvino parla piuttosto dei bisogni, dei sentimenti e delle emozioni dell'uomo, dei rapporti tra il mondo interiore, i problemi della conoscenza e anche delle convenzioni che mette in atto un narratore per rappresentare la complessità della vita. E beccati questa. E quindi il racconto Tutto in un punto, io vi consiglio sì. di leggerlo, è cortino, è molto... Che bello, sì, hai fatto bene a ricordarci... questo racconto, così, guarda, potrebbe essere il risveglio della domenica mattina questa volta. Anche tu hai ricominciato a svegliarti con il libro a fianco. Sì, bellissimo. Sì. Vi consiglio... Si esce meno bisboccia, si legge di più, si sta al calduccio. Ah, che bello. Perché l'età avanza. Con un gatto caldo sulla pancia. No, la borsa dell'acqua calda è l'unica cosa che ho in casa. A forma di gatto. Nemmeno, a forma di borsa medica. Quindi ci però siamo, sono le 20:27. Giusto, no, quello che volevo tempo. Dire prima, Nora, a proposito di Macerata, a parte gli scherzi, tutta questa cosa orribile che è successa, mi ricordavo per l'appunto del 2011 in Piazza Dalmazia a Firenze, è successa esatto. La stessa identica cosa, solo che il neofascista Casseri poi assassino. Si era sparato, almeno si è levato un po' dalle balle. Esatto, questo invece. Però riuscì a ammazzare diversa gente, insomma. Due? Tre. Tre. Erano Samb, Diop, no, quattro, cazzo. Quattro. Uno, due, tre, quattro, uno forse ferito. Comunque in Piazza Dalmazia, in un angolino, c'è una piccola lapide commemorativa. Tra l'altro anche troppo nascosta, secondo me. Sì, vabbè, anche lì anni fa, insomma, c'era stato un po' di problemi. Vabbè, visto, come dire, passa il tempo e siamo sempre lì a dire che poi invece sono semplicemente pazzi e incapaci di intendere e di volere. No, sono dei delinquenti assassini. Sono dei fascisti. Esatto. Tutto qua. Poi... Come tutti i fascisti sono sempre stati, delinquenti infatti, assassini. Capito. Vabbè, quindi niente, Macerata Posse ve l'ho già fatta sentire, ve la farei risentire di nuovo per sdrammatizzare, ma non si può. No, peccato. Sono le 20:28, allora vi faccio sentire qualcos'altro di breve e ci diamo un bacio, un abbraccione da subito. Sì. A giovedì prossimo e ricordatevi gli appuntamenti, due sabati di cortei e poi chi più ne ha più ne metta. E poi se vi va invece di divertirvi, oltre a tutto questo, tanto abbiamo detto, poi scaricate il podcast e ciao ciao. Ciao a tutti, a giovedì prossimo. A risentirci. J'entame une farce avec le bitume, par coutume, par habitude. Révolté par le réel, par les pensées, les attitudes. Enclin à la lassitude, j'ai préféré le combat. Faut se révéler, se répéter, référer les coups bas. Faut se réveiller avant que la seule issue soit sous les décombres. Les gorges au champ, le sol viendront annoncer le décompte. On se décompose petit à petit par la tête. Sors pas le costume de soirée car le temps n'est pas à la fête. C'est le prix, le poids de la paresse, non plutôt celui de l'égoïsme. Là-bas des enfants soldats, ici ce sont des choristes. Que Dieu vienne et puis me corrige. Perso, j'ai jamais croisé ni que les croisades, les croisières, les croix celtiques, les croix de fer. Et je crois que c'est la tolérance qui nous attire vers le vide. Je vais mettre un pied devant l'autre, mais la télé me fait perdre le rythme. On ne veut pas de terre de riche, ici on prône le partage. Mais ça reste utopique quand des cailloux affrontent des calages. On danse sur les pavés, avant qu'ils se mettent à voler braver. Les interdits c'est nécessaire, on le fera sans se poser de questions, sans se poser aux raisons qui nous lient vu qu'on se comprend sans se causer. C'est un appel aux indignés, on peine à oublier les résistants de tout temps, ceux qui n'ont jamais plié. On y est, 2015 s'en est laissé la crimée. Libérez vous criez, c'est le bal des insurgés. Rentre dans la danse, je t'arrête de suite, on fait pas de pénitence, sans plus de conscience. En état de fuite face aux circonstances, on crache sur vos valeurs et lâche les casseurs. Sur leur système oppressé, mené par des paleurs, je maudis tous leurs chiens en képi qui prennent les miens à partie. Je rêve de torches humaines et je vois les poulets rôtir. Sans foi ni loi, emmène notre gars contre leur super jour. Et leur crise insiste et toute leur stratégie qu'ils banalisent. Esprit vandale, ramène ton pochoir qu'on baisse. Le mieux à la rue nous appartient, aucune censure dans nos peintures. Frères d'infortune, on traîne en bande jusqu'au bleu azur. Récolte de propagande sur toute leur devanture. Révolte de quartier aux prolétaires émigrés. On jette le premier pavé, embrasé par les préjugés. Bafoué tout en leur éclinique, le système tout à leur rêve de brûler. Ce qu'ils s'aiment tous pareil, bienvenue au bal des insurgés. On danse sur les pavés, avant qu'ils se mettent à voler braver. Les interdits c'est nécessaire, on le fera sans se poser de questions, sans se poser aux raisons qui nous lient vu qu'on se comprend sans se causer. C'est un appel aux indignés, on peine à oublier les résistants de tout temps, ceux qui n'ont jamais plié. On y est, 2015 s'en est laissé la crimée. Libérez vous criez, c'est le bal des insurgés.